Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo nel 2019 ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena teatro su Radio Onda Rossa, spazio settimanale dedicato al teatro, spettacoli e mostre. Il martedì alle ore 14. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Marocchinate di Simone Cristicchi e Ariele Vincenti. Con Ariele Vincenti, musiche eseguite dal vivo da Marcello Corvino, voci off Elisabetta De Vito, Massimo De Rossi, Aurora Guido, aiuto regista Teodora Mammoliti, regia di Nicola Pistoia, produzione Corvino Produzioni. Sant'Anna quando vieva all'ortigello, piena di galli de malangonia. Si ci metteva sotto un alberetto ed era la voce lì fa lo nido. Se lo metteva sotto un alberetto, vedeva la voce lì fa lo nido. Sono gli agelli la famiglia fanno, io sono donna nella posso fare. Ma ci rispose un angelo di Dio, zitto Sant'Anna mia nel dubitare. Zitto Sant'Anna mia nel dubitare, ci la rafana figlia tanto bella. Forza che oggi noi altri teniamo da fa, sa? Mica potremmo star a perdere tempo con voi. Show! Bussa via! Andiamo tutte dentro agli ore 5. Oh, ah, professore! Ma che state a fare là fermo un balato? Che state a fare io timido? Andiamo, forza, venite avanti, no? Oh, Stellina, mannaggia la miseria! Stellina, va dentro un po'! Show! Bussa via! Stellina, dentro! Sta pecora, guarda, mi fa sempre inguastisa! Oh, show! Ah, Enzo, in Germania dicono schneller. In America dicono let's go, e in giociaria diciamo show show. Cioè, si usa più con le galline, eh? Ma io ci chiamo pure le pecora. È come un incoraggiamento, se te dico, significa show, show, forza, andiamo un po', show, bussa via, dai un po'. Oh, allora, Enzo, andiamo, forza, mettetevi seduto così vi racconto tutto per bene, no? Io ci sono cresciuto insieme con le pecore, sa? Papà mio tenevano gregge di 150 pecore prima di partire per la guerra in Africa. Poi me le so piate io quando esso è partito. A me in guerra mica me ci hanno voluto, sa, con sta gamba zoppa andoglievo. Poliomelite. Certe volte ammalasse è una fortuna, sa. E mamma mia ancora non sta a aspettare. Pensate che mamma mia dopo più di 15 anni dalla fine della guerra ancora insiste a ir alla chiesa a pregare il Signore a inginocchiarsi per farlo tornare. L'altro giorno, professore, stava a cercare, no? Sono andato alla chiesa, la so trovata che stava a pregare, ci sono fatta ma e basta a pregare, tanto papà è bello che è schiattato, boom, ha dato uno schiaffone, finché non mi fanno sapere niente, io continuo a pregare e te fatte i cazzi tua, a puro. Ah, poi insieme con le pecora, ci stavano pure Sergio, Carlo, Gino, Cesare e Santo. No, no, non erano gli amici sì, erano i cani pastori, che poi dopo erano pure più amici degli amici sì. I pastori abruzzesi, no? Quelli bianchi, bianchi, con il pelo lungo che pare lana. Oh, guai! Se una pecora si allontaneva dagli ocrecce. Subito Sergio, il cane pastore più anziano, no? La rinseguiva per tutta la vallata. Essa, la pecora porella, per la paura, si fermava e cominciava a tremare. E il suo coglio muso anduzzicalla... anduzzicalla a spignela, coglio muso, siete capito? E a riportarla su in mezzo al ladre. Che... Oh, mannaggia, Stellina, forza un po', va dentro, Stellì. Sta pecora riesce sempre a trovare un bucio per uscire dagli orecinto, sa? Va dentro, Stellì, bussa via, show! Oh! Ah, poi, professore, quando ci stava papà mio, facciamo pure un sacco di formaggio, Ma molto, molto di più di quello che faccio mo. 2 lire, una forma fresca, e 3 lire che la stagionata. Beh, si sa che io formaggio stagionato è più buono, no? Ti è pure da costare un po' di più. Ma poi la ricotta. E la veniva proprio una sciccheria. Mamma mia la metteva a cuocere dentro un pendolone e con un cestino di paglia la raccoglieva ancora calla calla che se si squaglieva a bocca. Certe colazioni si facevamo insieme con Filiberto. Filiberto è un amico mio, sì. Un stangone arto arto secco secco con 2 occhialetti da professore. Insufficienza toracica, sì, praticamente era chitico. Io poliomelitico e il surachitico. Eravamo compagni per forza. Eravamo pure compagni alla scuola, E pensate che Issu, a differenza mia che mi sono fermato alla terza elementare, pensate che dopo la guerra è stato uno degli pochi che è riuscito a finire le scuole, oh! E poi Filiberto teneva un sogno. Era quello di suonare dentro la banda del mio paese. Ma noi ce lo dicevamo. A Filippè, per suonare la banda del mio paese, tu vieni da suonare no piffero, no trambuno, no tamburo, no trombone, niente. Ma che ne sapete voi altri? Nonno mio ha girato il mio mondo a suonare il violino, so capito, Filippè? Ma noi altri ci piace di cantare, ballare, suonare, ma con il violino, che te vuoi? Bastatevi zitti. Io vengo da una famiglia dei poeti e dei musici. Oh! Rompeva i coglioni, però era bravo Filiberto con il violino, firmati. Che tempi che erano quelli, professore, prima di quella guerra maledetta. Te basteva poco e te sentivi in paradiso, guarda. L'unica cosa brutta, ti fa la verità, era quando tenevamo da ammazzare una pecora. Porella, tutte le volte per scegliere era una storiaccia. Oh. Allora, lo sapete, papà mio che faceva? Per non far torto a nessuna, no? Chiudeva l'occhi, allungava il braccio con sto dedo dritto dritto e cominciava a indicare. Thank you. qua a un certo punto, badabam, si fermeva e a chi toccava si ingrugneva. Ia mangiavi forza, oggi tocca a te, andiamo forza, chiudi gli occhi. Allora professore, chiudo l'occhio, allunga il braccio, allungo il braccio, comincia a indica. Apri gli occhi, ma io mica te ne voglio coraggio di aprire gli occhi per vedere io da domenico quale, su quale pecorella sera per forza, si sinteso si sorda, apri un po' sti occhi. Oh, apro un occhio solo piano piano e non mi trovo io detto me ho puntato davanti all'occhi di quella pecora porella che se mi guardava come a chiedermi pietà. Mi si è stretto io cuore quando papà mio se l'è portata via. Eppure Sergio, il cane pastore più anziano, pure esso piagneva, sa? Perché era come se se lo sentiva che quella la pecora gli va a morì, aglio patibolo. Guarda che è proprio vero che le bestie danno più sensibilità degli cristiani, in cese crede, eh? Ma però, professore, a dire la verità, quando sa, siamo magnata, mi è passato tutto il romanticismo, sa? Eppure a Sergio c'è passato, capite come scodinzoleva, zombeva quando ci tenevo l'osside che la pecora. Sembravano le belve che sbranavano gli animali in mezzo a quei boschi. Un giorno, professore, la guerra era cominciata già da un pezzo. Io stavo insieme con un po' di amici miei a pasce le pecore in cima all'artipiano de Cambello, famoso perché ci cresce la cicoria selvatica. Quando ecco veni a balle no temporale fulmini, saette, bam, bam, bam, e tutti giù a cure dentro una baracca per riparasse. Un freddo faceva. Ah, ci stava pure Silvina, la ragazza mea, con io fratello Giuseppe. Io tenevo una ventina d'anni, essa 16, e per sposarsi era ancora presto, siete capito, perché tenevamo da aspettare prima la fine della guerra e io ritorno di papà mio e di papà... di papà mio e di papà su. A professore, ma sto a parlare troppo complicato, ce la facete a scrivere, sì? Vabbè, insomma, che ecco che quello giorno si cominciano a sentire i soliti rumori delle bombe, no? Noi altri stassimo tutti tranquilli perché era già da un po' di tempo che sto rumore delle bombe si sentiva da lontano. Meno le bombe d'Alfredo, le scuregge. Che ste da ride, eh? Noi altri mica ridevamo, sa? Che le si sentevano da vicino, voglia se se sentevino, ma... quel giorno il rumore delle bombe invece di allontanarsi si avvicinava sempre di più. Oh, questo non è Alfredo, eh? Queste sono le bombe che si avvicinano. Ma volete vedere che mo arrivano pure qua? Boni! State buoni, oh! Se gli americani ci danno a venire a liberare, danno a tirare queste bombe in cima ai tedeschi, so capito? Ma mannaggia santa, niente, no? Sopra la capoccia nostra, oh! Siamo rimasti tutti dentro la baracca a guardare fuori, fermi e nascosti con gli occhi in gola. Gli cani di fuori che abbaglievano parevano lupi, oh! Le pecorelle mie spaventate porelle non sapevano che fa. S'hanno appiccicata una con l'altra che se induzzevano tra tesse, strillevano, pareva che chiedevano aiuto. Bene! State buone, belle di papà! Non vagitate che è peggio! Mo passano ste bombe, mo pancia lì! Mi stringa la mano? Sì, Sirvi, dammela! Mi prometti che in viaggio di nozze mi porti in Canada? Cugini, mi ha detto che l'ho, che è pieno dei laghi, che dice che quando te ci tuffi ti sembra d'entrare dentro io cielo. Ma sì, Sirvi, che te ci porto! Bah! 147 pecore e 5 cani, tutte me l'hanno abbruciate, sti migliacchi, oh! Stevino lì distese, fumando incenerite, c'è stevano profumo di carnarosto, professore, che se n'era una tragedia, te veniva quasi voglia di far merenda. Caduna ancora si contorceva, ma per poco, sa? Che una bastonata, solito lei, sono fatte finite tribula. Pensate che solo un tre s'hanno salvate. Che quasi mi ci veniva come la voglia d'appuntarci una medaglia, sa? Pecore sopravvissute de guerra. Per quello che dopo le so pure battezzate, sì, sì, sì. 18, 1 e 44. Era io 18 gennaio del 1944. E da quel giorno è cominciato tutto. Fecero l'inferno. Per tutta la montagna si sentivano strilli e lamenti. Sembrava un girone dantesco. 5, 6, 4! A professore a me, negli giorni di festa, proprio non mi piaceva di stare a mezzo alla cagnara. Là me ne lleva alla cantina sociale, che poi dopo era pure peggio. Beve, bestemmia, gioca alla morra. Papà a me o mi c'è imparò a giocare alla morra? E Angelì, Guardami fisso dentro agli occhi e cerca di leggere il mio pensiero mio quale numero moglio te caccio. Sei pronto? Sì, papà. 5, 6, 4, ah, papà, stavolta te sono fregato, ah, professore. La morra è un gioco antico popolare, io paese mio, tutti ci giochiamo alla morra, sa? Funziona che tutti è da un laio totale che caccia la mano mea con la mano... La mano mia con la mano... Vabbè, professore, levate quello quaderno, giochiamo così si impara, eh? Sei pronto? Andiamo, eh? 6, 5, 8... Si vinto te? Vabbè, si tenuto culo, andiamo, facciamone un'altra, va? Sei pronto? 5, 4, 2, 4... Tiè, professore, stavolta te sono fregato! Quando vince è un trionfo, perché non sei stato solo più sverto, ma sei stato più furbo, più intelligente dell'avversario teo. E sta cosa io compare che ci ha rimesso le penne, non ce va giù, sa? Proprio per niente ce va giù, quanto ce l'ho io culo! Certe combattute, botte, feriti, bestemmie, tutte le sere era una storiaccia davanti alla cantina sociale con sta morra, che poi dopo a strigne, noi altri volevamo vincere la morra solo per far colpo sulle femmine, siete capito? Perché quando tu vincevi era come se era più maschio, sì, insomma, ci facevi più bella figura con le femmine. Finché sono conosciuta a Sirvina Mea, fermi tutti, da lì in poi me ne è più fregato niente delle altre femmine, sa? Tutte le morre che vincevo ce le dedicavo a essa. 7, 5, morra, a Sirvì, sono vinciuta contro tutti quanti! Quando era bella Silvina Mea prima della guerra, professore. Pure se di femmine belle era pieno io paese, sa? Come le morre che si trovano in cima agli trattori. Ah, gli trattori sono gli sentieri di montagna, no? Che noi pecorari facciamo quando andiamo a pasce le pecore, ecco. Quello che siamo fatto prima per salire qua sopra, quello è un tratturo, eh. Oh, c'è Steva Enza, teneva uno stacco di cosce che era una cavalla. E quando io faccio agli fiume, io con l'amico mio Filiberto, se nascondevamo dietro una fratta giù a spiarla mentre essa lavava i panni. Oh, quando Steva piegata, se faceva insomma un po' di lezzine che parevano tranquille. E secondo me ce lo faceva pure apposta perché ce lo sapeva bene che noi trittassimo lì a spiarla. Steva ride, professore, magari a chiappalle che l'anguille. Veramente proprio a dire la verità, le pugnette che ci siamo fatte. Ma che? C'è da scrivere sta cosa delle pugnette, professore? Ah no, no, non ti incazzare, no, infatti mi sembrava strano che un professore come te scrive sta cosa sulle pugnette. Eh? Certo, professore, c'è sta l'albero là, iate, che ci fa pure bella la pianta, eh? Ma poi, professore, c'è Steva Carmela bella come un angelo, e quelli che vedi disegnati sulle pareti delle chiese. Teneva giusto un po' di baffi, ma teneva due spalle, Carmela, che mi parevano carabiniere, oh! Filiberto non si faceva le pugnette pure sugli baffi di Carmela. E poi dopo quelli, gli baffi a essa, professore, ci hanno pure salvato la vita, ma quella è un'altra storia. Ma che, già si è finito? Ti si è fatta poca, eh? Anzi, lo sai che ti dico, professore, mi si è fatto venire voglia pure a me. Insomma, professore, le donne dalle parti nostre lavoravano più dell'uomini, sa? Sapevino l'orto, taglievino gli ugrano, cucinevino, facevano crescere gli mammocci. Poi tenevino una forza o uno stropinaccio, un capo, ci si caricavino di tutto. Via per il paese, grano, lena, certe conche piene d'acqua de 20, 30 chili. Lo disse Ponzio, lo confermò Pilato, che io pesce dopo la pisciata va scrullato. Ma che te fu? Sedi, vediamo che non so io, va. Al sedi, ve? Un po' così con questo, che non ci capisco. Ecco, vedete, vi potete mettere bello che seduto e non vi pungica più la paglia. Andiamo, sedetevi. Oh, guarda che è pulito, sedetevi. Va meglio, mo? Lo so detto. Insomma, professore, tenere una donna dalle parti nostre era come tenere un mulo. Se fermevi un attimo, se scoppievano di salute, tutte belle, paunazze in faccia con ste guance rusce come le fragole. Che poi pensate, professore, vesse, tenere le fragole in faccia, era come se le imbruttevino, no? E allora Carmela con quei baffi che doati che mi parevano maresciallo, mi pareva. Infatti pensate che quando ci steva la domenica mattina la messa, no? Che era proprio l'evento della settimana, e tutti quanti noi altri si vestivamo bene, no? Eppure esse, le femmine, si acchittevino, si insomma, si facevino belle. Ma prima della guerra, dalle parti nostre, e le femmine mica tenevano io trucco che tenevano le donne delle città. E allora ste matto, sapete che facevano? Strucevano le manonci ma gli muri, no? E quando avevano raccolto un bel po' d'endonaco, oh, so passavano in cima le fragole, per ricoprirsi tutti gli rossi delle guance, siete capito? Eppure Silvina Mea faceva così, ma mica le teneva le fragole in faccia, ma essa niente, dura come gli serci. E io che me lamentavo sempre perché dopo che saremmo baciati, le occhie nostre ci sembia strevano de carcinacci e giù a sputare tutte e due. Presero una ragazza e la portarono nella vallata. Era sera, la riportarono la mattina. Non era più lei, era un cadavere ambulante. Quei giorni di primavera degli 44, mica si pensava dei delle cantine a bere, imbriacarsi a giocare alla porra, sa? Ci stava la capoccia, erano giorni di guerra, giorni di fame, mica si pensava ai dei agli fiumi a tirarsi le pugnette, oh! Le femmine non se lo passavano l'indono con cima le guance per farsi belle, nessuno girava per il paese mio. Noi altri stassimo tutti rifugiati in cima a ste montagne, dentro le grotte per la paura di morire sotto le bombe. Dormivamo in mezzo alla terra come i vermi e tenevamo una fame professore, una fame nera. E mentre i tedeschi ci venivano i cavalli l'orzo rubato agli contadini. Noi contadini, professore, se mangiavamo le piante rubate agli porci. La verità è che siamo diventati tutti schiavi dentro casa nostra. Ma poi arrivano gli americani, ci ripiegano tutto quello che i tedeschi ci hanno rubato, sì. E fammi capire, a bello. E poi arrivano gli americani che fa che te portino. Mio padre è bianco. Pane bianco, e poi che testo pane bianco, non lo saccio, ma dice che profuma di pace. Oh, cosa da sentire a questo? Io pane bianco, ma c'è capito, eh? E poi che arrivano gli americani, io mi compro il mio trattore nuovo, e ve lo toccioli, oh! Ma quale trattore nuovo? Ma quale pane bianco, mannaggia santa niente! Ma ci avete capito un cazzo, eh? Che gli americani per venirci a liberare, prima qui, qui che andavano a ammazzare i tedeschi! Ammazzare i tedeschi, sì! Lo corpo d'accetta in cima a un ciocco d'Elena, professore. Così gli tedeschi avevano diviso in due l'Italia. E qui, in sociaria, avevano tirato su la... A linea Gustav. Bravo, professore, si vede che voi altri siete studiato, eh? 230 chilometri di trincette e bunker costruite in cima a ste montagne con migliaia di soldati tedeschi nascosti in mezzo alle rocce. Trincee e bunker costruite con gli sudore de nui contadini sociari. E chi se rifiuteva? Ci tiravano un corpo di pistola in capo. E scrivetele ste cose, professore, perché io le so viste con sto occhi miei e non ve sto di bugia. Oh, ma ve rendete conto, eh? Che dalla conquista de questa buona terra nostra, de pecorari e de contadini, dalla conquista de sto pugno de montagne e de paesini dimenticati da Cristo, dipendeva il destino della seconda guerra mondiale. E tutto l'avvenire degli omoni. Guarda quanto so venute buone quest'anno, guarda quanto so bella, volete una? Ah, non sapete quello che vi perdete, professore. Queste sono le mie, so, eh. Poi io tengo un sacco d'alberi da frutta, sa? Tengo le albicocche, tengo le mele, le pere, le pesche, l'orto. No, io vino quest'anno poco. Con tutte queste grandinate che ha fatto, professore. Ma poi ricordatemi, prima che ve negliate, che ve lascio pure in parte il tritolio con una bella caciotta stagionata, eh? professore, ma te la posso chiedere una cosa io? Ma tutte queste cose che stia a scrivere, che ce fai poi? Su un giornale? Come si chiama? Epoca. Ma non la conosco quest'epoca. Insomma, professore, siete capito sì come se siamo ritrovati nella primavera degli O 44? Schiacciati in mezzo a due fuochi, oh. Da una parte c'è steva io muro degli tedeschi e dall'altra gli americani che avanzavano a piedi, uno davanti all'altro come la morra. 7, 5, morra! Gennaio degli 44 li primi botti, 6, 2, 4, 4.152 morti ammazzati, 5, 7, morra! Altri 4.321 morti ammazzati americani. Niente, oh. Sta linea Gustav, eh? Mica crolleva, sa? Sti fide una buona donna dei tedeschi resistevino, mica scappevino. Quando ecco che gli americani che si comincia ad avere andorce io culo e io 15 febbraio degli 1944 si arsa in cielo uno stormo dei bombardieri e giù grappoli de bombe da 200 kg a io chicco. Bah! Bah! Allora de maniera tutto finito. Ce lo sapevi sì che quello giorno dentro all'abbazia de Monte Cassino c'è stevino più di 1.000 profughi degli paesi nostri, tutti morti ammazzati sotto a quelle quintalate de bombe. I monaci si sono a salvare tutti e 12, dicissi preghevino perché i profughi sociali impreghevino. Ah, poi un'altra cosa, professore, ce lo sapevi sì che quello giorno, in cima a quelle montagne, dentro all'abbazia, non c'è steva manco uno soldato tedesco. Ah, non lo sapevi, scrivilo. Non c'è steva manco no soldato tedesco. Quelli mica erano stupidi. Quelli sono arrivati dopo dall'alto. Tanti punti neri come gli semi degli cocomi di quando gli sputi s'hanno calati in silenzio e zitti, zitti s'hanno iti a parecchi in cima a quelle montagne, nascosti in mezzo alle rovine degli o convento, appiccicati alle rocce come gli cranchi. Per mesi e mesi quelli tedeschi a resistere in mezzo a quelli boschi. Eppure, cazzo, gli alleati erano uno formicaio contro essi, sa? Perché oltre agli americani ci stevino gli inglesi, ci stevino gli francesi, ci stevino gli canadesi, gli polacchi, gli nuovazelandesi, pure gli indiani ci stevino, ma i tedeschi, eh? La boccia dura, oh! Ti fide una buona donna dei crucchi appiccicati a quelle rocce che non li potevi staccare. E mo, professor, siamo arrivati a io punto. Secondo te, di tutti sta alleati, chi c'è ido a stanagli cranchi? Eh? Chi ci si è arrampicato in cima per le montagne a stanagli tedeschi? Eh? Nanzi a issi, chi ci si è presentato? Te lo dico io, Gomierz, tribù marocchini. Ma professore, io li so visti, sa? Quelli mica erano soldati normali, mica tenevano la divisa, quelli tenevano uno strofinaccio arrotolato in cima alla capoccia, certe barbe longhe e addosso tenevino una specie di tappeta strisce come gli carcerati, e quando pioveva si coprivano con un cappuccio di pelo di capra come facevano gli altri pecorari, perché pure essi erano pecorari e contadini, mica erano i soldati belli con la barba fatta che dopo ha fatto le sfilate in giro per i paesi accorti come l'eroe. Oh! Mica erano biondi e con gli occhi azzurri, ma gli occhi dei issi erano neri, sbarati, e t'aggrinzevino la pelle. E ti da senti quando puzzevino. Manco sembravano un esercito normale, professore. Sembrava gente raccattata in mezzo alla strada, scuri, meglio carbone. E a io naso, tenevino certi anelli grossi come quelli che portano le vacche. Erino gli guerrieri più esperti agli mondo, a combattere corpo a corpo. Ce lo sapeva bene pure gli generali dei Issi, quello con gli papetti, Alfonsin Chouin, comandante dell'esercito francese e degli marocchini. Ce lo sapeva che bestie che erano. E l'ha convinti Pepe, l'ha convinti proprio bene bene. Oh, là, esiste un fronte! Richard, ma no, ma fate! Sicuro non si se, a passare le otto volte del segno, so schizzo dal mondo nel suo vivo. Allora, ma, votre gira, je vous come, je vous jure! Che se no, se to, se fate, tu se che vous trouverez, vous appartiendra, e vous pourrez en faire tout ce que vous voulez pendant sans qu'elle. Scavallati quei mondi laggiù, c'è sta la terra larga, ricca di vino, di oro, di case, de bestie e de tante donne gentili. Se voi altri riuscite a sfondare la vita degli tedeschi senza lasciarne vivo manco uno, il vostro generale vi promette, anzi vi giura, che vi se potete fermare. E tutto quello che vi passa per la capoccia e per le mani diventa vostro per 50 ore. Siete capito, sì? Eh? Che ci hanno bastito sto marsh carzone per convincere le rampicasse in cima per le montagne a stanare i tedeschi al posto degli americani, eh? Oh, mica ce l'hanno mandati gli soldati francesi, gli signorini con l'R moscia, no? Gli Gaumiers ci ha mandato, e qui la vedete come erano contenti che son bevi non cima a balle per ste montagne caprette scure! Pareva, no? Tu giorni e tu notti, gli sanno bastata ste caprette scure per vincere l'ultima grande battaglia a colpi di fucile e di curtello. E ad avete quegli altri come scappevi, noi issi. I tedeschi, eh? Enzo, cioè credi che io so visto uno soldato tedesco, mezzo moribondo e imbiastrato di sangue, che stava appoggiato a un ramo d'olivo e teneva certi occhi sbarati che te fissevino, ma mica te guardevino, sa? Marocchino, arcano, non toten, arrivate marocchini e uccidere! E così, innanzi agli occhi neri sparati degli marocchini, si cominciano ad aprire le montagne e a far capocella agli primi paesi. E da in cima alle macchie escono file infinite dei profughi dei paesi nostri che puzzavano di fame e di miseria. Donne stremate, sule, perché gli mariti e gli fratelli ingestevino come Papa Meo. Steva disperso in Russia, chi steva prigioniero in Grecia, tutte ci vanno incontro con gli fazzoletti in mani, pronte per salutare gli nuovi liberatori e per chiederci disperate un tozzo di pane bianco che profuma di pace. Attacca, Filippo. Come da finito lo sappiamo tutti, no? Che l'americano arriva a Roma, liberano l'Italia, eh? Fanno le sfilate dentro i paesi, regalano le cioccolate agli ragazzini e le sigarette agli vecchi, no? Ci portano io benessere, ci mettono l'uovo dentro la carbonara, siamo tutti contenti. E viva l'americano! Ma qua da noi, in giociaria, li carri armati con le cioccolate e le sigarette, mica si sono viste, sa? Qua la storia è da riscrivere, oh! Enzo, bisogna trovarlo lo spazio per inviare queste cose dentro la storia, ma quella importante, quella scritta con le lettere grosse. Perché questa è nata da quelle storie che senza queste parti mica la conosci, sa? Successa sopra una terra, dove se non tieni parenti o amici, mica ci vieni. Una storia sconosciuta, successa sopra una terra sconosciuta. la giociaria. Chi te pecora se resta, io lupo se la frega. Matera, dove ogni piazza, ogni pietra, ogni vicolo te raccontate una storia contadina fatta di terra, di sudore, di fatica, perché io vigno fa sangue, ma la facia fa il taglio sangue, una terra fatta di grano, lanciata le galline, di asini carichi di lena, di donne con le conche sopra la capoccia, perché una mamma gamba 100 figlie, ma 100 figlie non gambano una mamma, una terra fatta di uomini, che a forza del zappà, la mano gli si è fatta tosta come io cuoio. So quelli che per tutta la vita hanno lavorato come le bestie, perché chi sta sopra comanda, ma chi sta sotto s'addanna, ma... Quando arrivavano le sere di festa, quando tutta la piazza si riempiva, quando le pasteva io sono ben organizzato, e si diventava tutti fratelli, se mettevano lì e... Te pozza via un corpo, belle belle, te pozza camminare con le stampelle. Si tremagli la polenta, la panza te s'ambosca e io culo te s'allende. Ste chiacchierate c'hai sarà la fame, fatti buttare un piatto di maccarone. Io primando do a core, io secondando culo a culo, io terzan a causa il culo. Siamo una compagnia tutti d'accordo, quando passiamo noi fate ce l'arco. La la la la la la la la la la la. La la la la la la la la la la la la la la la. Ma succede finita. Ma i marocchini l'ho distrutta la storia contadina della terra nostra. Io popolo, le feste. Come le cavallette quando vengono a mangiare io capo, professore. Son bevino dappertutto. Pure qua sotto, qua. A io paese mio. Nato di quei paesi fuori da io tempo. Nato di quei paesi dimenticato da tutti. Come sta storia. Erano come le formiche, rao. In 3 giorni facettero l'inferno. S'hanno acchiappato 3 sorelle. La madre si è messa a mezzo per difendere, un corpo ci hanno tirato giù a violentare le figlie innanzi al corpo della madre. Oh! E quando finivano le donne si acchiappavano gli uomini, vecchi, bambini. Sfugavano da tutte le parti. Per tutte queste montagne si sentevano l'echi degli strilli. A professore, ma dove vuoi scappare? Le botte che mi hanno dato erano in 20 contro di me. Da sola aspettavo solo di morire. Te vino anseguì una gallina che se la volevino mangiare. E questa anseguì a nasconde proprio tra le fratte che coprivano la grotta nostra. Oh, guarda che è proprio vero che le galline sono stupide, ma fatta nascondere da un'altra parte, no? E qui li pacchiappalli non ci hanno visto. E tutti giù a ride. Pure la gallina rideva, oh. Puzzavano come gli cani. S'hanno acchiappato tutte le femmine che ci stevino, pure che le vestite da maschio, mica ci sanno cascati. Invece Carmela con quei baffi, te, l'ha fregati a sti zozzi. Eppure mamma mia, te, credi ancora a sora per sapete papà. S'ha litigavano assieme fino a mea perché era la più bella. Alla fine se l'hanno acchiappata in 5. Ci hanno strappato quelli 4 stracci che teneva i ciugarci, i cazzotti. Una volta teneva l'occhio che ci sorridevino, adesso mi pareva Gesù Cristo quando va a morire. Se mancava la croce sulle spalle, e ci chiamava, chiedeva aiuto, Giuseppe, Angeli, e l'urli si ce rimbombevano nella capoccia che solo Dio lo sa. Io vado, non resisto, Angeli, state zitto, Giuseppe! Strilleva, piagneva. Puteva, quanto urlava Sirpinamea, mozzicheva, graffieva, ci credi, professore, che pareva pure essa, no diavolo. Allora una bestia con gli occhi rossi, sa che pazza, io fucile. E Sirpinamea non parleva, non graffieva e non sputeva più. Allora Giuseppe gli si è lanciato addosso, che è la mia sorella! La bestia con gli occhi rossi già ha sparato un colpo a un petto. E tutti quell'altri giù a ride! Bruciavano per i capelli in cima alle margherite a Sirpinamea, mi parevano burattino vuoto senza i fili. E io sapete che stavo a fare, professor? Niente. Stava a piangere come un bambino, perché non potevo fare niente. E invece una cosa la potevo fare. Era prendere Silvina Mea e portarla davanti a Iolaco, dove dice che quando te ce tuffi ti sembra dentro dentro io cielo. Allora come un bufalo comincia a correre verso gli diavoli a testa bassa, urlati disperato con le gambe che andavano da sole. Silvina! La bestia con gli occhi rossi, quello che aveva appena ammazzato Giuseppe, incomincia a ridere, eh? Alza il fucile dritto dritto come io ti ho davanti all'occhio di quella pecora, ma esso chiude un occhio solo e poi spara. Ero morto, no? Sopra di me i rami con le foglie che si muovevano e la gallina che mi guardava fissa dentro agli occhi. E da lontano non sentivo parlare straniero. Oh, mica ero morto, sa? Non era morta la bestia con gli occhi rossi, tenevano bucio rosso in cima alla fronte, con gli strilli degli soldati americani in cima agli marocchini che si sparpagliavano nella boscaglia. I vigliacchi. Ma volete una sigaretta, professor? Va bene, ambuma. Ma voi da dov'è che venite? Canaccio di Lizzano, un bel vedere. Ma che è un paese tipo i paesi nostri? No. Non la conosco, sta pianura di Bologna. Bello, professor? Questo mi ha regalato papà io il giorno che è partito per la guerra in Africa. Tanto lo saccio che fumi, oh no, ma non è vero papà, ma state zitto, piano sta accendino, bugiardo. Oh. Magari mamma con tutte queste preghiere che dicevo fa tornare papà, visto mai? Luciana si chiama mamma mia. È un po' scorbutica, però è una persona de core. Tutti quelli che hanno preso parte all'ultima offensiva hanno reso l'onore della Francia, eh? Questo ci stava scritto in cima io messaggero degli 30 maggio degli 1944, mi è rimasta stampata dentro la capoccia sta frase di stute colle. Ma senti un attimo, professore, tu che sei studiato, no? Levimi una curiosità. Cioè, ma davvero sto de colle voleva dire che sti marocchini sono comportati bene, eh? E tutto quello che ho fatto dopo i paesi nostri? Ausonia e Speria, più di 800 femmine si hanno acchiappato. Madri, figlie, nonne, bambine. Manco una hanno tenuto la pietà di Graziella. Le chiamavano Ajalà, puttana, puro. 50 ore di carta bianca per aver sfondato qua cazzo di linea custa, boh. Ma mica gli sanno bastato quelle pore disgraziate, sa, no? E allora via! Castro de Vorci, Patrica, Pofi, Isoletta, Lenola, Supino, Valle Corsa, Morolo, Rocca Gorga, Sezze, Pico, più di 20 giorni ho stati qua, ammazzà, violentà, ruba oro, bestie, pure gli corati per la casa se rubevano, l'alleati, gli liberatori. Mannaggia santa niente, che mannaggia. E meno male, professore, che c'è stava una puttana vera, questa lo sapete che ha fatto. Eh? Si è acchiappato un postino, si è fatta porta in giro per i paesi nostri con la motoretta, ha cercato di avvertire le femmine, scappate che arrivano gli marocchini, scappate, eh? No, non saccio come si chiama, ma scrivetelo su st'epoca di sta storia, perché è una storia importante che ha salvato un sacco di vite umane, un eroe è stata sta puttana. Mi scoppia io cervella, professore, ma davvero sti marocchini hanno fatto l'onore della Francia? Eh? Perché se io lo incontro a sto de colle, io sai che ci dico, gli dico, ah bello, ma senza niente di quello che ho fatto io generale Dio, isso, quello qui, i baffetti, isso, gli amici sì, ai paesi nostri, che dopo tu de colle si pure appuntato una medaglia in petto, ma non dai vergogni, lascia pure un monumento, no? E io monumento a Don Alberto, non sta? Bravo, sì, io parroco di Speria, che si è messo in mezzo per difendere tre femmine, l'hanno imbalato in piazza, innanzi a tutti quanti. La colpa è stata la vostra! Che siete fatto finta di non vederlo tutto sto schifo, lo sanno, andate con lei, eh? Ma sto pensiero, da se rintorcina di notte dentro alle putella. Scrivi, Enzo, hanno lupo affamato, se ci apri io con l'aglio, quello se le mangia le galline, no? E allora a me non mi basta più dalla corpa sola di diavoli con gli occhi neri. me mi ha detto bene, eh? Perché se quello giorno non passavano gli soldati americani, ma pure io stavo sotto terra con Cimalla, poi che mi venivano a dire io cimitero, poi Angelino, pure isso ha dato l'onore all'Italia, eh? E a mamma mia che facevano? Ci appuntavano una medaglia in petto, ma che cazzo ci fa una madre con una medaglia se io figlio sta sotto terra con Cimalla? Non ci santa niente. La medaglia. Eh? Ah no, professore. Scusami che quando mi scappa mannaggia santa niente è un'espressione dei paesi nostri per non offende nessuno, per non bestemmiare. Perché pare brutto bestemmiare, capito? Allora noi altri diciamo mannaggia santa niente così. Non facciamo torta a nessuno. Enzo, oh, scusami veramente, Lo so, eppure che sono passati 15 anni da sta storia, io quando ci penso mi sale io sangue agli cervello, non è che mi incazzo, Sì, sì, mi siedo che... Dimmi. No, il numero totale di sti morti e di ste violenze non si è mai saputo. Si sa che sono migliaia, perché che le mica ci jemino a denunciare le pore disgraziate, si vergognevano, marocchinate, le chiamevano. Era come un marchio a fuoco, come le pecore, come le vacche. Condannata a vita, oh! L'ergastolo ci ha dato! E le malattie che hanno portato sti beduini, eh? Le medicine non arrivevano, la penicillina costava un sacco di soldi, e chi li teneva gli soldi? Intanto però se moriva! Prima le vecchie, poi le bambine, poi le donne, ragazze! Ma pure quelle che stavo salvate non pensare che stanno meglio, sa? Ti rina a campà, perché tenno l'anima morta! Perché queste cose te si cancellino dalla capoccia, te ritornino sempre, de giorno, de notte. Quando te zozzano l'anima, non c'è sta niente che te può guarire. State zitta, non fiatà, eh! Non sapete parlare di sta storia, niente, ti tasci, chiudete dentro! Non t'azzardate avvicinate che te scanno, sa? Te so dito, chiudete dentro! Amo piagni? Vergognata che sei! Si è fatta all'amore con gli marocchini! Che figura mi si è fatto fare innanzi a tutto il mio paese, eh? Questo ci dicevano, no? I gentiluomini, i mariti, quando tornavano dalla guerra, e giù a sputarci in faccia, a carci in culo. Dormevano con il coltello sotto il cuscino per la paura che di notte gli si avvicinava la moglie loro, Enzo! La moglie. La peste tenevano, no? La vergogna che crocifigge l'umanità. Non fa ballare gli bagni agli fiumi, sbriga da ritornare! Quando ero piccina, piccina, mio papà mi portava a giocare. Mi diceva, Marietta, vien grande, che ti voglio maritare. Agli fiumi, dove prima tutti i giorni festeva una festa, queste femmine che sceglievano lì a lavare, parlare, cantare, queste bagnarole di vero che pesavano l'ira di Dio, e sti sapori di Marsiglia che profumevano l'aria. Adesso non è più così, adesso guai a parlare e cantare. Perché le marocchinate non ce potevano io agli fiume per lavare quelli quattro stracci che tenevano, perché invettevano l'acqua. E qui l'altro, le miracolate, giù a sputaccia in faccia, a serci addosso, già provate più a venire qua, schifose! E se zitte, la scappa via a testa bassa. Ma finalmente, nell'ottobre degli 51, quelle che scappevano a testa bassa, le arzino ste capocce e cominciano a scendere da ste mandagne, da sti tratturi, guidate da una signora, una politica con due palle così, e se ritrovino agli cinema teatro de Ponte Corvo per una storica assemblea, show, forza un po', show, oggi io firmo non c'è sta, oggi io firmo, lo facciamo noi, e giù a urlare con rabbia e con dolore gli torti e la miseria loro, e gli strilli sono così forti, che se sentino fino a un Parlamento. Noi riteniamo che questo governo dovrebbe subito provvedere a corrispondere a queste, che sono migliaia di donne, tutte le cure sanitarie, gratuitamente. Onorevoli colleghi, vorrei sapere le ragioni per le quali a 7 anni dalla fine della guerra non sia stato ancora provveduto alla liquidazione delle 60.000 domande ancora inevase, avanzate per risarcimento, in parte per violenza carnale e in parte per uccisioni, mutilazioni, furti e incendi. Vorrei sapere le ragioni perché, ricevuto il libretto di pensione, queste donne a oggi non hanno ancora percepito un soldo. Vorrei sapere le ragioni perché solo per queste donne i percorsi per ottenere giustizia si stanno trasformando in veri e propri calvari. E vorrei sapere le ragioni perché noi, onorevoli colleghi, non facciamo qualcosa. Grazie. Ma come io solito, gli strilli di queste donne sono stati inutili. A uno politico l'ha tenuto il coraggio di dire che non era vero niente, che le malattie le hanno portate gli mariti che tornevano dalla guerra e che in tutta la sociaria soltanto 3 donne sono state piate dagli marocchini. Guarda che ci vuole in culo in faccia, eh! Ma con quale coraggio ci viene a dire una cosa del genere a noi? Diavoli. I diavoli. Sono arrivati i diavoli. Questo mi diceva sempre Silvina Mea dopo io fattaccio. E io accarezzarla, a confortarla. So i di via, gli diavoli, Sirvi, so i di via, non ci stanno più i diavoli. Eh? No, no. Per fortuna Silvina Mena è stata infettata. Però, se è vero come è vero che a tanta gente la guerra ci ha portato via un figlio, un padre, una madre, un fratello, una sorella, a Silvina Mena la guerra ci aveva portato via la voglia di vive, la gioia di sorride. Ci pievino certe crisi, ma io me la so sposata lo stesso, sa? Alla faccia loro! Pure se sa niente, professore, era chiusa dentro casa che non voleva più uscire. Era come se aveva chiuso le finestre dell'anima sia. E giù a lavare, pulire, lucidare, io che ci faceva dirvi basta, che poi dopo te stanchi e te senti male, ma essa niente, dura come gli serci. E giù a lavare, pulire, lucidare. Forse perché da quel giorno le macchie di sporco se le sentiva dentro, come sta storia, la macchia nera che sta dentro la grande storia. Ma poi un giorno, Angelì, mi porti a vedere io lago dove dice che quando te ce tuffi ti sembra d'entrare dentro io cielo. Io lago, eh sì che te ce porta. No, professore, ma quale Canada? Apposta Fibreno qua vicino, no? E che per vedere un lago ci sta bisogno di fino a un Canada, tanto alla fine uno vale l'altro, sempre acqua, Ma la tenate da vedere, com'era contenta, emozionata, che per la prima volta dopo tutti gli anni mi ha fatto uno sorriso. Io stesso da quando teneva 16 anni. E io che ci dicevo, brava Silvi, ridi che te fa bene, ridi! E mi comincia a baciare, come quando si metteva l'indona con faccia. E siamo finiti a fare l'amore per la prima volta dopo tutti gli anni in mezzo alle fratte degli Olago, che se passava caduno magari ci arrestevino pure. La professore era guarita! Già siamo venuti a sentire Filiberto suonare a io teatro comunale de Castro de Vorci, la ciaccona de Bach. Bravo Filiberto, bravo! Oh, dimmi che c'è bello di papà? Sì, dici a mamma che mo scendo, tanto qua con il professore siamo finito. Via qua, via, professore, guarda, va. Quello è il figlio mio, lo siamo chiamato come papà mio, Silvestro. Lo sai che vuol dire Silvestro? E porti l'uomo che scappa, che corre in mezzo alle montagne, in mezzo agli boschi. A Silvestro, vieni prima che ti faccio conoscere io, professore. Niente, in giù se in gula. Guarda, guarda, guarda. Insomma, come uno scoiattolo, sto bello figlio mio. A Silvestre, sta attento, che caschi, capirai. Vabbè, senti, professore, mo se teniamo da salutare, perché tra l'altro noi stasera andiamo tutti quanti alla cantina sociale, eh? No, ma che è a giocamorra, professore? Stasera alla televisione ci sta, non è mai troppo tardi, che bravo quello maestro là che ci sta, no? Pane bianco, oh, mi raccomando, occhi aperti stanotte, eh? Capirai, quello già sta a dormire, eh? Pane bianco se staffa vecchio, o tocca pian altro cane pastore, almeno pure pane bianco se ne va in pensione, se riposa un po' pure isso, coraccio. Ah, senti, professore, poi devo lo dire un'altra cosa, ma come vi rimettete? Io cognome vostro qual è? Biaggi, Enzo Biaggi. Oh, a Enzo Biaggi, speriamo che queste cose che vi sono dette vi possano essere utili. Ah, poi un'altra cosa che volevo chiedere, professore, ma sto giornale dove scrivete voi altri, no? Stepoca, ma ci arriva dalle parti nostre? Ecco, bravo, mi raccomando, mandatemi una copia che io ci tengo, sa? Io saccio leggere e scrivere, oh! Io sono fatto fino alla terza elementare, ma mo, con un è mai troppo tardi, mi sto dando un'altra bella infarinata, sa? Tengo giusto che ha problema con gli verbi, ma insomma, li starebbe giusto a risolvere, ecco. Eh? E certo, professore, mo che scendiamo vedo pure una... un bar dell'itritoglio con una bella caciotta stagionata. Alza, sei ricordato, eh? Tiè, guarda un po' che spettacolo, professor. Lo vedi? Guarda, eh? Ora ti faccio vedere. Quelli sono gli monti aurunci, quell'altri sono gli monti ausoni, e lì sotto c'è staio carignano. Vestendo certe anguille. Ma quali quelle tenza, professor? Anguille vere, no? Mamma mia, le cucine, aglio, olio, sale, peperoncino, pepe e un ciuffetto di rosmarino. E te senti in paradiso, come quelle sfumature là, tiè. Sti tramonti ve li sognate, le pianure di Bologna, tanto venite voi, eh. Lo sapete, papà mio, che mi diceva sempre? I tramonti sono come le belle donne, de stanchi ma de guardarli. Mi hanno raccontato una storia accaduta durante la guerra, quando in Italia arrivarono i marocchini. In un paese c'era una donna che aveva vissuto con scarsa morigeratezza, ma quando si rese conto di quello che stava accadendo, salì sulla motocicletta del postino e corse da un posto all'altro per salvare le altre donne dalla violenza che quei soldati esercitavano senza rispettare né le cose né le persone. Questa donna evitò alle altre donne tanto dolore e tanta umiliazione. Mi hanno anche detto che lo Stato le passò poi una pensione, come un soldato che è andato al di là di quello che è il suo dovere. Non so come si chiama, non so se è ancora viva o se è morta, mi hanno detto che viveva in una piccola isola, so di certo che ha pagato per la guerra un prezzo, come pochi altri. Appena posso, da Roma, vengo qua, al paese mio, insieme agli amici miei, perché mi fa bene, respiro aria buona, mangio cose buone e poi vedo certi tramonti che tolgono il fiato, eh. E una volta, salendo quassù, ho trovato una sorpresa, un monumento, una lapide. Qui giacciono 175 soldati francesi in memoria. E un anno fa, in occasione della ricorrenza ai piedi di quella lapide, è stato messo un sacco della spazzatura e una testa di maiale. E non si è mai saputo chi è stato. A me diverte pensare che sia stato mio nonno Angelino o mia nonna Silvina. Ah, io sono Francesco, il figlio di Silvestro, quel bambino che saltava come uno scoiattolo, e questo spettacolo è dedicato alle migliaia di vittime di questa brutta e tragica pagina di storia. Perché, come diceva qualcuno, l'uomo che non onora il passato non è degno di vivere il presente e sarà un incapace per il futuro. Con Ariele Vincenti per parlare dello spettacolo Le Marocchinate. Ariele, ben ritrovato. Sì, ciao, ciao, buongiorno a tutti, ciao Federico. Allora, per chi ci ascolta, chiaramente presentiamolo, di cosa si parla, cos'è Le Marocchinate?

Ricordiamo la mostra Guerra ai poveri a Roma, al Centro Sperimentale di Fotografia CSF Adams, che è a Monteverde, dall'11 maggio al 7 giugno 2019. Un saluto e un ringraziamento al fotografo Tano D'Amico. Tano, un abbraccio, grazie, in bocca al lupo, ci vediamo alla mostra. Grazie, grazie, grazie, ciao, ciao. Eccoci alla settimana teatrale con pochi appuntamenti, ma speriamo buoni, e il nostro Simone Nebbia di Teatro e Critica che ce ne dirà qualcosa. Ciao Simone. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Allora, dunque, questa settimana resta poco da andare bene effettivamente, però insomma qualcosa di buone e riusciamo ancora a trovarlo lì. Sicuramente perché in Italia che presenta questa settimana un po' di abbiamo già sentito dietro l'altro, che è un direttore artistico, ma entrando nello specifico andremo a vedere questa sera al Teatro Largo Studio di Romana, il Teatro dell'Edice, che è di Toscano, di Firenze precisamente, che presenta questo Ercole, le stalle di Augia, da Friedrich Duchermatti. Si tratta di un monologo, un gioco teatrale esplosivo e immaginativo, presto l'ironia esasperata di Ercole nella pantia della vicenda mitologica coglie l'occasione per riflettere, diciamo, sulle disfatte del mondo contemporaneo. Questo ci porta il Teatro del Lecce, ma è domani che andremo a vedere uno spettacolo, c'è cioè una compagnia che è un particolarmente legato, ovvero Calcugino Ventriglia, dice Calcugino, Gaetano Ventriglia, che presentano Come si parla, sempre al Teatro Argo, La vita dalla terra, sul processo del continuare ad esistere, continuare ad esistere, è ripetuto 3 volte, ed è un lavoro che affronta l'archetipo del Don Quixote, ma cambia però prospettiva, La vita dalla terra. Antonio Scalzino ha definito un'altra terra dalla luna. Ora, dalla terra guardiamo la luna, e questo che andremo a vedere con Gaetano Ventriglia e Silvia Garbuccino domani al Teatro Argo Studio. Seguiranno I carichi sospesi, che tornano a compagnia padovana, torna Marco Calderon, Marco Di Pianel, non ricordo, con vari lavori degli anni passati. Questa volta si tratta di un Otello, ma un Otello, diciamo, la responsabilità limitata, Otello SRL, ai margini dell'impero, tale dei centri di potere, temprani nei giorni nebbiosi dei grigi inverni, noi viviamo così, per noi Venezia è lontana, quasi come l'America. Così ci dicono i carichi sospesi, che il 6 giugno, giovedì, andranno sul palco dell'Argo Studio. Ancora, 7 giugno, Teatro Sofia, con la Teatro Sofia, la coppia Goretti-Coreghi, Riccardo Goretti, con il lavoro Io sono partito. Una storia di parte, una storia di tutti, racconta insomma di questo uomo che nasce lo stesso giorno, nel 1921, in cui nasce il Partito Comunista, e quindi affronta l'intero, tutta la vita, e così dire esattamente, ripercorrendo 20 anni per questo spettacolo a Teatro Sofia il 7 giugno con i Chittoretti, 8 giugno ancora, dove come quando tutta la compagnia ospite, che con il Gil Pietro D'Attolo, con il lavoro di Laura Cucciarelli, scena, base, giamana, delizia, pensare, programma dedicato, respiro fuoco, la mia testa si muove come quella di un drago, non posso uscire per alcuno, tutti, e questo è il lavoro poetico che viene portato da D'Attolo in questo programma, sempre Teatro Sofia, così come il 9, ultimo giorno delle nostre, della nostra settimana, per MIRF, Mamma insegnami la felicità, Natalia Magni porta in scena questo suo lavoro con la regina Monica Faggiani, che male c'è a volersi sentire giovani, e questo fenomeno delle donne che portano le loro di madre e di amica e si vestono e si comportano come le proprie figlie adolescenti e come se fossero vittime di un'intimera eterna giovinità. Questo andremo a vedere al Teatro Sofia il 9 giugno, ed è tutto per ciò che riguarda l'inventaria. Andiamo anche a vedere l'ultimo appuntamento del Premio Tiglio Pozzini, Santiago Talenti, domani 5 giugno, con Chaos, Manoir 12, regia e testo di Daniele Ronco. Siamo in una distopia nel 2026, un progresso tecnologico e avanzato, il luogo si dimentica di se stesso. si intreccia la storia dei due personaggi opposti e si incontrano in un campo di sterminio costruito dagli umanoidi 12, sono e dichiarano guerra all'umanità. Questo è ciò che andremo a vedere 5 giugno al teatro Vittoria Vera in Frega, che risalviamo in Italia. Gli ultimissimi appuntamenti sono dedicati a tre cose che mi interessa segnalare. L'una è, mi interessa segnalare il Festival Internazionale di Teatro di Figura di Roma, 6-9 giugno, per teatri in comune, e quindi saranno in vari luoghi, diciamo tra il Teatro di Lido, Teatro della Monaca, India e Villa Bambini, e sarà appunto un festival diffuso su 4 teatri della rete, per il programma completo ingresando dal sito teatrodiroma.net, però sarà dal giovedì 6 fino al 9 giugno. Ci saranno grandi classici del teatro di figura italiano, così come delle produzioni internazionali, e insomma, da non dimenticare il teatro di figura è profondamente importante per il nostro panorama dietro nazionale e internazionale. L'ultimissimo lavoro di cui ti parlo è il poco citato, la faccia di un cittadino, che sarà dopo l'estate, e per una spettacolo di danza, di teatro, del cinema, da incontri dedicati alla Francia. Questa è l'occasione del 7 giugno per andare al Chiostro del Bramante per una performance unica tra danza e proiezioni. La Horde porta il domani è cancellata in prima nazionale. In questo è libero fino alle talmente posti di grande, ore 19:30 al Chiostro del Bramante, ma che viene poi da noi. Sono aspettato alle 21, l'opera in giugno, che viene poi G7. Si tratta insomma di una performance inedita, una un po' particolare, che insomma va a portare qui una compagnia molto importante in Francia, e viene poi accompagnato queste coreografie apparentemente improvvisate di jump style sull'Indian State Dance, che nasce negli anni 2000, vanno poi ad essere accompagnati dai film realizzati dal collettivo di Master Stool, dove nel mezzo di un balletto di macchine sotto l'occhio di una telecamera in continua rotazione andremo a trovare dei corpi danzanti e ribelli, convulsi che si stropicano l'uno con l'altro. Questo è quello che andremo a vedere per la Horde il 7-8 giugno al Chiostro del Bramante. E con questo un abbraccio Simone, alla prossima, ciao a tutti. Tutta scena teatro su Radio Onda Rossa, spazio settimanale dedicato al teatro, spettacoli e mostre. Il martedì alle ore 14. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.